Jetzt kommt die letzte, der letzte Beitrag. Arriva l'ultima relazione per questa sera. Professor Sorrentino parla di Schleiermacher e la filosofia trascendentale. Se sarà abbastanza breve avremo tempo per discutere a lungo. Io me lo auguro. Se invece... Anche se l'argomento... È l'opera omnia di Schleiermacher? No, no, no. Le opere scelte. Ach Bende. Non è qui, non è qui. La discussione che è emersa questo pomeriggio e i contributi che sono venuti oggi mi sembra che abbiano portato, come dire, lo sguardo, abbiano appuntato l'attenzione, la nostra attenzione, su quella che io chiamerei la cosa di Sache, del pensiero di Schleiermacher. Qual è questa cosa? È appunto come pensare l'individuale attraverso l'universale, una formulazione che ci è diventata familiare, ma chi conosceva Schleiermacher, come dire, l'aveva già familiare dall'opera di Manfred Frank, Das Individuelle Allgemein. Come, ancora, la cosa del pensare schleiermacheriano, come pensare l'Augenblick, che abbiamo visto questa mattina, è così turgido di divenire. Come, altra formulazione, individuare l'esperienza, la verità dell'esperienza contingente, del contingente, diciamo, come pensarla? Ecco, per dare una risposta a questa domanda, che mi sembra la domanda suprema dal punto di vista di Schleiermacher come intellettuale, e quindi, come dire, il problema centrale e cruciale della sua avventura intellettuale, mi sembra importante, come dire, rapportare il modello di pensare elaborato da Schleiermacher e praticato, vorrei dire, da Schleiermacher, con la tradizione della filosofia trascendentale. Oggi si parla molto di rinnovamento, di diciamo rimessa in circolazione della filosofia trascendentale. E in che rapporto Schleiermacher sta con questa tradizione? Vedremo subito che questo comporta una costellazione problematica di carattere storiografica che io delimiterò subito. Però questo è un po' il problema, perché, ripeto, questo modello di pensare elaborato e ho di mira, ho sott'occhio soprattutto la dialettica elaborato, ma anche praticato. E allora tutte le cose che sono state dette oggi potrebbero essere una, come dire, una prova, una esemplificazione di questo modello in actu esercito di pensare elaborato da Schleiermacher. Ecco, allora articolerò il mio intervento in due punti. Il primo è la delimitazione, come dire, storico-filosofica del problema. La seconda, i quattro nodi, i quattro nuclei tematici fondamentali che, esposti nella dialettica, ci permettono di afferrare questa elaborazione di un modello di pensare che è l'unica adeguata a pensare l'esperienza, il contingente, l'Augenblick, eccetera, eccetera. Ecco, il pensiero di Schleiermacher ha subito, questo è il primo problema storiografico che si pone, ha subito l'impatto dell'impostazione propria della filosofia trascendentale? E in che misura ha reagito a questo impatto? Fino a che punto si è allineato, orientato lungo questa tradizione filosofica, che pure è così rilevante per le sorti successive della filosofia e del pensiero? Ecco, questi interrogativi mettono in questione anzitutto il rapporto che intercorre tra l'impostazione teoretica di fondo, ho detto il modello di pensare, di Schleiermacher, e innanzitutto, perché mi sembra che di qui bisogna partire, quella di Kant. Ecco, già una prima delimitazione del mio oggetto storiografico. Ma anche, ovviamente il problema si deve allargare per indicare appunto la complessità del problema, anche per esempio quella di Fichte, ecco, cui spesso Schleiermacher è stato accostato. Io ricordo qui la monografia sulla dialettica di Falk Wagner, per esempio, oppure i rilievi che César muoveva in occasione della lettura della prima parte della Glaubenslehre. Questo accostamento, diceva César, qui mi sembra di leggere Fichte. Allora, il problema di questo rapporto, e quindi l'interrogativo circa la collocazione di Schleiermacher nella tradizione della filosofia trascendentale, si specifica in due distinte costellazioni storico-filosofiche. La prima, appunto, il rapporto tra Schleiermacher e Kant. È il problema che mi sembra la storiografia filosofica recente mette più in evidenza, la letteratura schleiermacheriana, diciamo, che pone l'attenzione alla filosofia di Schleiermacher. Ecco, devo dire che quando si affronta questo motivo, Schleiermacher in che rapporto sta con Kant, sorgono una serie di marcate perplessità negli studiosi di Schleiermacher. Probabilmente, io cerco di rendermi ragione, questa perplessità è dovuta, questo storcere la bocca, no? È dovuta all'ascendenza della formazione teologica che in genere caratterizza gli studiosi di Schleiermacher. Mi sembra che sia noto che, per quanto vi sia un consistente capitolo della letteratura kantiana che ha insistito sulla recezione positiva di Kant in teologia, esiste, no, naturalmente. Ecco, in genere però il cultore di teologia vede con sospetto Kant, in quanto è considerato essenzialmente un soggettivista. E allora, questa pone già delle ipoteche difficilmente superabili. Analoga trattazione storiografica si può dire, è stata impressa al problema del rapporto Kant-Hegel, no? Cioè, oggi si ritorna su questo rapporto e, a mio avviso, in maniera più adeguata, rispetto al problema storiografico che pone, per esempio, il rapporto Kant e Schleiermacher. Ricordo, per esempio, l'ultima Hegel-Tagung dedicata appunto a questo problema, che è stata pubblicata poi con quel titolo Kant oder Hegel, punto interrogativo. Oppure da noi una serie di contributi che vanno un po' in questo senso. Ecco, allora, anche in questo caso, cioè nel rapporto Kant-Hegel, si cerca di recuperare, al di là della rottura polemica e della intenzionale contrapposizione teoretica, i motivi della continuità problematica. Ed è in questo senso che mi sembra che si possa e si debba porre il problema che io ho posto: Schleiermacher in che rapporto sta con Kant. Ecco, secondo punto, che allarga ovviamente l'orizzonte, il rapporto Schleiermacher e la filosofia dell'idealismo. È un nodo storiografico, se possiamo dire, ancora più aggrovigliato, perché include, oltre il problema della collocazione di Schleiermacher rispetto alla posizione teoretica fichtiana dell'idealismo trascendentale, che appunto propriamente dovrebbe rientrare un po' nel mio tema, ma io ovviamente lo devo accantonare perché per fissarlo sul tema del rapporto Schleiermacher e Kant, anche il problema dei possibili rapporti con Schelling, per esempio, e in particolare con la sua Naturphilosophie oppure con la sua Identitätsphilosophie, e i problemi della divaricazione, potrei dire su tutti i fronti, così accennava anche stamattina, con l'impostazione hegeliana, che è poi questa divaricazione estremamente netta, e la divaricazione con la scuola di Hegel. E qui vorrei indicare a titolo di esempio, ma mi sembrano estremamente significativi, anche se poco studiati, il rapporto che ha avuto, l'impatto che ha avuto il pensiero di Schleiermacher su due esponenti, diciamo, grosso modo, della scuola hegeliana in senso molto largo, come Baum e Strauss. Ecco, purtroppo su quest'ultimo terreno, su questo secondo terreno, cioè il rapporto Schleiermacher-idealismo, c'è da rilevare una scarsità di interesse e di studi da parte degli storici della filosofia e dei filosofi, quasi che l'apporto di Schleiermacher alla problematica filosofica elaborata nel contesto dell'idealismo, o meglio, nel contesto della filosofia post-kantiana, fosse del tutto irrilevante o fosse riconducibile all'una o all'altra delle diverse posizioni riconosciute. Vabbè, qui si potrebbero introdurre una serie di esempi, per brevità li risparmio. Allora, a questo proposito, io vorrei avanzare una tesi che potrei formulare in questi termini. Anche qui due punti che esprimono la tesi. Prima, la problematica di impostazione della filosofia e le tematiche ad essa connesse, cioè al problema, alle problematiche dell'impostazione, in particolare i problemi dell'impostazione trascendentale, è comune sia a Kant sia alla generazione successiva. Ed è probabilmente, io aggiungo, un livello insuperabile di problematizzazione con cui ancora dobbiamo fare i conti fino in fondo. Anche se poi, naturalmente, le soluzioni adottate differiscono tra di loro. In particolare, le soluzioni adottate da Schleiermacher esibiscono i caratteri della originalità, non si lasciano ricondurre a nessuna delle altre soluzioni. Bisogna aggiungere che esse hanno avuto scarsissima circolazione e per lo più secondo un taglio parziale, secondo quello che su cui ci si interrogava ieri. L'interrogativo è stato posto anche ieri. Dicevo, scarsissima circolazione nel dibattito filosofico successivo. E queste soluzioni, diciamo così, sono state raramente utilizzate, pur configurando esse una possibile via di uscita da una serie di vicoli ciechi in cui si è cacciata la filosofia successiva. A questo proposito io vorrei rimandare, mi sembra a tutt'oggi estremamente istruttivo, alla diagnosi che Husserl faceva nella crisi delle scienze europee, dove appunto si parla del punto di partenza della impostazione trascendentale. Quindi questo primo aspetto, diciamo, di una tesi, ovviamente poi tutta da dimostrare, da svolgere. Secondo, una ripresa radicale, cioè fino ai suoi termini ultimativi, di questa problematica, che configura poi interrogativi supremi, diciamo metaproblematici, della filosofia e della scienza, e che dunque stanno alla base e a monte dei molteplici saperi, insieme alla definizione delle possibili soluzioni alternative a quelle comunemente accolte, gestite poi nella filosofia dell'Ottocento e del Novecento, o rifiutate nel dibattito filosofico che si è svolto da Kant ai nostri giorni, può essere decisiva per la ricostituzione di un senso proprio della filosofia e del suo apporto all'autocomprensione dell'umano. Ricordo a questo proposito un tema che mi sembra circoli come istanza soggiacente all'intera riflessione di Heidegger, cioè quella di recuperare l'apporto, no, del filosofare rispetto all'apporto degli altri saperi, alla comprensione dell'umano. Ecco, che l'impostazione trascendentale costruita da Schleiermacher, quello che inizialmente ho chiamato il suo modello di pensare o di pensiero, costituisca appunto una di queste alternative è il senso, il significato dell'ipotesi che mi propongo di svolgere, senza dimenticare tuttavia che tale ipotesi è suscettibile di diverse verifiche a partire da approcci differenti. A questo proposito, Michael Welker, nel suo bellissimo contributo su Schleiermacher come filosofo, distingue questi tre possibili approcci: quello appunto ermeneutico, quello etico, quello dialettico. Sono possibili approcci che agiscono e, come dire, puntano tutti a questo nodo centrale del pensare, del modello di pensare elaborato da Schleiermacher. Per affrontare dunque la problematica di impianto del filosofare in Schleiermacher, occorre puntare, a mio avviso, sulla dialettica, che, ben inteso, è un testo poco sfruttato, anche per lo stato, non dimentichiamo, in cui versa la sua redazione, e purtroppo, bisogna aggiungere anche, scarsamente indagato, anche se in questi ultimi tempi si può notare una buona ripresa dell'interesse per la dialettica. La problematica di impianto, però, può essere distinta da quello che Welker chiama il Grundproblem, cioè il problema di fondo di Schleiermacher. Ecco, a questo proposito, per distinguere la problematica di impianto dal Grundproblem, cioè dal problema di fondo, potrei dire questo: che il problema di fondo in Schleiermacher è certamente il problema etico, che assume nella sua prospettiva un allargamento straordinario. È, come dire, il Formelbuch, come lo chiama lui, della storia, l'etica, e quindi il problema etico. Ma, ecco, la problematica di impianto investe questioni che stanno alla radice dello stesso Grundproblem della filosofia di Schleiermacher. Allora, a questo proposito, mi sembra di poter articolare una serie di osservazioni che ci introducono poi alla seconda parte della mia esposizione, e cioè alla individuazione dei nuclei tematici che costituiscono poi il modello di pensare e quindi che configurano questa problematica di impianto della filosofia. Innanzitutto mi sembra che si debba rilevare come la dialettica riprende i problemi posti da Kant e sui quali si affaticava l'intero movimento dell'idealismo. Quali sono questi problemi? Ecco, li delineo in questi quattro nuclei di cui parlerò subito. Appresso. Comunque, questo testo, cioè la dialettica, ha dato luogo a varie interpretazioni, a partire dalla monografia di Verum fino a quella che in maniera molto felice, io ritengo, Reuter ha dedicato alla dialettica, passando da tutta un'altra serie di letture della dialettica. Io qui ricorderei quella di Kaulbach, di Wagner, di Rothet, eccetera. Secondo osservazione. Il primo problema, sono osservazioni di approccio alla dialettica. Il primo problema che incontriamo è che di fatto poi, se seguiamo un po' la storia delle letture che sono state date della dialettica di Schleiermacher, è questo. Schleiermacher si raccorda alla linea Fichte-Schelling, come vuole per esempio Wagner, oppure si raccorda alla problematica aperta da Kant, svolgendola certo, come accennavo prima, secondo una direzione autonoma. E questo è questa, in fondo, la risposta affermativa a questo interrogativo, cioè si raccorda alla problematica aperta da Kant e configura un po' il senso della tesi che io vorrei prospettare. Per cui, ecco, la linea di pensiero adottata da Schleiermacher e l'intero suo filosofare rappresenta una linea originale e alternativa rispetto a quella di Fichte, tanto per individuare un interlocutore. Non dico quella di Hegel perché mi sembra la cosa più chiara a quel livello. Terza osservazione. Più che all'analitica trascendentale e al problema della cosa in sé, Schleiermacher si rivolge alla dialettica trascendentale, valorizzando le possibilità argomentative e non illusionistiche del pensare antinomico, come del resto lo stesso Kant aveva cominciato a fare a proposito dell'antinomia necessità-libertà, che più che apporre un limite segna un confine e quindi apre l'antinomia ad una, come dire, possibilità argomentativa nuova rispetto a quella delle antinomie precedenti. E Schleiermacher si rivolge con particolare attenzione alla dialettica trascendentale. Ricordo un testo a questo proposito, un testo pubblicato nelle Jugendschriften, nel primo volume, di raccolta di excerta dalla Metafisica di Aristotele, dove a un certo punto c'è un rimando, a proposito della teoria aristotelica delle cause, delle quattro cause, c'è un rimando alle antinomie kantiane. E da notare che la lettura, diciamo, l'origine, la collocazione temporale di questi excerpta è contemporanea alla lettura che che Schleiermacher fa della critica della ragion pura di Kant. La cosa mi sembra estremamente significativa. Comunque, accostando in prevalenza e con particolare interesse la dialettica trascendentale, Schleiermacher opera una ripresa più fondamentale e più radicale della problematica dell'antinomia. In questa ripresa l'orizzonte del pensare non è costituito dall'intuizione spazio-temporale. Tenete presente come nella argomentazione kantiana vengono risolte le antinomie. Le antinomie, come dire, si costituiscono perché non si tiene conto della forma a priori spazio-temporale. Ecco, Schleiermacher, come dire, va oltre, cioè opera una ripresa più radicale. Perché? Ecco, perché in questa, come dire, soluzione kantiana dell'antinomia vige l'a priori del modello del pensare matematico-fisico, mentre Schleiermacher va alla ricerca di un modello, come dire, più radicale. Ed è quindi questa, diciamo, l'orizzonte del pensare è costituita dalla finitezza radicale, cioè dalla radicazione individuale, linguistica del pensare medesimo e insieme dalle sue possibilità di questo pensare, dalle sue possibilità di trascendimento radicale in direzione di quello che Schleiermacher chiama nella dialettica Urgrund des Seins. Non solo, ma anche di trascendimento strutturale in direzione di quello che Schleiermacher chiama il correlato del pensare, cioè dell'essere. Ecco, la ripresa, come dire, la gestazione della problematica antinomica della dialettica kantiana viene calata in questo contesto, come dire, nuovo. In questa prospettiva, io insisto su questo tema al quale peraltro ho dedicato un'attenzione, come dire, specifica nel contributo al convegno di Roma, in questa prospettiva il vero pensare antinomico non è quello prospettato da Kant, cioè appunto il pensare tra la ragione applicata al mondo fenomenico e segnata dall'intuire spazio temporale e ragione applicata al mondo numenico con la sua inclinazione a oggettivare l'incondizionato e quindi, come dire, a depotenziare l'incondizionato, bensì quello che adibisce isolatamente le funzioni del pensare, quelli appunto che la dialettica tematizza come i due versanti o i due poli del pensare, la funzione organica e la funzione intellettuale. E qui, come dire, siamo già introdotti nel cuore di uno dei temi più significativi, a mio avviso, di quel movimento di riflessione verso, beh, mi passate la parola, la fondazione trascendentale, cui perseguita, cui, come dire, Schleiermacher vuole giungere con l'itinerario dialettico. Il problema del fondamento, della fondazione, a mio avviso, deve essere ripresa. E, diciamo, questo tema, questo filo conduttore dei due poli del pensare è un motivo caratteristico ed essenziale del decorso dialettico. Ultima osservazione, e vengo poi a questi nuclei molto brevemente, è questa. Attivando questa ripresa della problematizzazione kantiana, nel senso che ho indicato, Schleiermacher recupera altresì l'impostazione critica del pensare e del filosofare, quella impostazione che in Kant era rimasta legata ad un residuo di assunzioni dogmatiche da cui il movimento dell'idealismo trascendentale, qui cito in primo luogo Fichte naturalmente, si assumerà il compito e la responsabilità di liberare. Due linee caratterizzano sotto questo profilo il pensiero moderno, almeno quello post-kantiano. La linea posizionale, come la chiama Reuter, il quale parla di filosofi posizionali, posizionale filosofico, che concepisce in termini espliciti o impliciti il pensare come posizione della ragione. Ecco, naturalmente, il primo nome che viene sott'occhio è Hegel, no? O anche, per esempio, tutta quanta la cultura animata dal positivismo, eccetera. E di fronte la linea critica che concepisce il pensare come discorsività tra le due antinomiche possibilità del porre, cioè quella metafisica e quella nichilista, ovvero empirista. Queste due linee caratterizzano, se vogliamo, tutto il dibattito filosofico post-kantiano. Questo pensare si svolge nella ricerca delle proprie condizioni di fondazione, secondo un modo, ecco, qui venga il problema del fondamento. Il problema del fondamento si pone a partire da Kant, in maniera completamente nuova. Ecco, mentre Chiodi, uno studioso di Kant, parla di rivoluzione categoriale del fondamento. Cioè, mentre fino a Kant il fondamento è legato all'incondizionato, e quindi la fondazione è la fondazione sulla linea dell'incondizionato, dopo Kant questo tipo di fondazione o di pensiero del fondamento non è più possibile. Perché la fondazione e il fondamento viene legato al possibile, alla possibilità, o meglio ancora, viene legato alla possibili alternative, e quindi viene legato, se vogliamo, al contingente, al finito, eccetera. Ecco, per quanto concerne Schleiermacher, il suo pensare si configura come critico in quanto è riflessivo intorno all'atto di pensare incarnato linguisticamente. E in questo senso mi sembra si possa recuperare e, come dire, verificare quella formula che Schleiermacher usa a proposito della propria posizione filosofica come realismo superiore, höheres Realismus. E se ricordiamo l'aggrovigliata argomentazione di Fichte a proposito del realismo e dell'idealismo e tutte le formulazioni, diciamo, che Fichte conia per indicare questo grosso nodo del pensiero post-kantiano, ci rendiamo conto qual è la posta in gioco, diciamo, alla base di questo pensare criticamente organizzato. Vengo al secondo punto, ripeto in maniera molto veloce, per indicare quali sono i motivi, i nuclei fondamentali del decorso della dialettica. Ecco, possono essere raccolti in quattro nuclei tematici, nei quali in fondo si svolge la tessitura teoretica della dialettica, essenzialmente nella parte che Schleiermacher chiama trascendentale. Primo, il tema del pensare puro. Schleiermacher parla di pensare puro. Cos'è questo pensare puro? Notate, viene evitato un termine che era corrente, aveva conio corrente nella filosofia dell'epoca, del pensare assoluto. Vorrei dire che in qualche modo qui c'è un ritorno al linguaggio kantiano, ma non soltanto al linguaggio. Kant, come dire, evita il termine assoluto e usa in sua vece il termine puro. Ecco, questo tema del pensiero o del pensare puro viene tenuto a distanza dalla impostazione kantiana, che pure appunto aveva contribuito a formulare il problema di un pensare, di una funzione, vabbè, del pensare indipendentemente da elementi, come dire, estranei, provenienti dall'esperienza. Ebbene, in che senso in Schleiermacher questa tematica, questo tema del pensare puro viene tenuto a distanza dalla formulazione kantiana? In questo senso, che appunto non è più questione che questo pensare derivi o meno dall'esperienza, perché ha comunque a che fare il pensare con l'esperienza. Ma, ecco, questo pensare puro viene calato nella problematizzazione delle grandi aree di esperienza in cui è coinvolta la ragione, cioè la praxis, la ragione pratica kantiana, inclusa anche la ragione tecnica, perché il concetto di praxis, come dire, viene allargato sotto il profilo del decorso dialettico con questa ampiezza. Dico praxis, poiesis, altra grande area, come dire, dell'esperienza umana, dietro cui è soggiacente, mi sembra, come dire, la problematica che Kant aveva raccolto nella critica del giudizio. e infine la noesis, appunto la ragion pura. Ecco, quando Schleiermacher parla di pensare puro, intende appunto demarcare, diciamo, il pensare rispetto a queste altre aree che costituiscono, diciamo, altrettante possibilità dell'esperienza umana. In maniera molto, molto sintetica, la praxis è pensiero operativo. Notate perché Schleiermacher, come dire, recupera l'elemento cognitivo all'interno sia della praxis sia della poiesis, non solo della, della noesis. Ecco, ma fondamentalmente questa praxis è la ragione progettante e produttiva, quindi non è il pensare puro. La poiesis a sua volta è il pensiero artistico, ma in senso molto largo, cioè è la ragione artistica orientata alla sollecitazione del piacere. Cosa si intende per piacere? Nella dialettica, naturalmente, lo si intende in maniera molto, come dire, molto larga, cioè abbraccia la duplice sfera della soggettività giudicante, il riferimento va alla critica del giudizio di Kant, cioè estetica e teleologica, e in ogni caso denota l'intera sfera di produzione di una sollecitazione emotivo-soggettiva. Anche rispetto a questa sfera, che pure presiede a campi, diciamo, dell'esperienza umana molteplici, il pensare puro si demarca. Allora, che cos'è pensare puro o la noesis? La noesis è pensiero puro, cioè pensiero orientato alla produzione del sapere e sollecitato dal voler sapere, dal wissen wollen, senza intenzionalità pratica. Ecco, notate, no? Mentre Kant, come dire, pensava, definiva il pensiero puro nella sua demarcazione dal, diciamo, dall'apporto dell'esperienza, della sensibilità, Schleiermacher lo definisce in rapporto alla sua demarcazione rispetto alla praxis e alla poiesis. E allora qual è il termine intenzionale di questa ragione qualificata dalla noesis e dal pensare puro? È l'essere, quale referente del pensiero riflettente, cioè di quello che Schleiermacher, la dialettica, chiama abidliches Denken, cioè l'essere che determina il pensare. A questo proposito vorrei indicare come nella dialettica è possibile ricostruire una tavola dell'essere che, a mio avviso, deve essere collocata accanto alla famosa tavola del nulla che chiude l'analitica trascendentale kantiana e che è molto importante per quella che Reuter chiama una caratteristica filosofica in senso leibniziano, cioè di una determinazione puntuale degli ambiti categoriali, delle categorie che usiamo, in questo caso essere, oppure nel caso di Kant nulla. Ecco, una cosa che probabilmente molto spesso la filosofia, come dire, vicina a noi, probabilmente ha dimenticato. Oh. Allora, dunque, il pensare della noesis è intenzionato all'essere. Ed esso si apre ad una duplice problematizzazione, quella relativa alla sua costituzione trascendentale, con il complesso itinerario riflessivo che nella dialettica mette capo al Selbstbewusstsein, è qualificato con l'aggettivo di unmittelbar, e all'altro, come dire, referente del Urgrund des Seins, che implica il movimento, come dire, conclusivo della parte trascendentale della dialettica. Quindi questa duplice problematizzazione: prima, la costituzione trascendentale; secondo, quella relativa alla sua costituzione formale, cui è dedicata poi, diciamo, la seconda parte della dialettica, che, notate, capovolge l'impostazione kantiana, nel cui contesto, chi ha la familiarità con la critica della ragion pura lo può rilevare facilmente, ecco, nel contesto kantiano l'elemento formale precede l'elemento trascendentale, ponendo una serie di questioni che la letteratura kantiana si è affaticata a risolvere, ma comunque mi sembra un dato da rilevare. Ecco, il discorso della dialettica verte proprio su questo campo, cioè su questa intenzionalità all'essere del pensare puro. Questo è il primo tema, il primo nucleo tematico, che naturalmente, certo, richiede di essere seguito poi nelle sue articolazioni, ma mi sembra di aver espresso l'essenziale. Secondo, il pensiero puro si radica in un'area linguistica. Cioè, Schleiermacher persegue una lettura sincronica e non diacronica, come invece tutto sommato, lo dico con precauzione, con tutte le precauzioni del caso, come tutto sommato fa Kant del pensare, una lettura sincronica e non diacronica del pensare. Il pensare viene letto nella sua radicazione, nella sua gettatezza, Geworfenheit, una categoria che mi sembra possa essere adoperata qui, culturale, cioè è radicata nella cultura. Il rapporto, no? Il legame con il linguaggio denota la radicazione culturale del pensare. Quella radicazione alla quale poi Schleiermacher dedica una serie di sviluppi nella dialettica, in polemica, guarda caso, con Fichte, il famoso problema del pensiero e della vita, della filosofia e della vita. Come nasce la filosofia? Per Schleiermacher la filosofia è sempre, come dire, posteriore all'esperienza, alla vita. La filosofia è un Nachdenken, non un Denken, diciamo, senza radicazione culturale. Quindi il pensiero, e anche il pensiero puro, anzi essenzialmente il pensiero puro, è legato indissolubilmente alla vita della cultura, come strumento endogeno della vita e dell'esistenza storica della cultura e dell'uomo, l'uomo linguistico, l'uomo parlante. Inoltre, il pensare puro è legato ed è intrecciato intimamente agli altri livelli del pensare, appunto quello che abbiamo chiamato la poiesis, la praxis. Ecco, qui bisognerebbe aprire una parentesi e porsi un interrogativo: se non ci sia in questa direzione, diciamo in questa accentuazione di Schleiermacher, una eredità della famosa tesi russoiana del rapporto tra natura e cultura, ma comunque qui entreremo in una serie di problemi, non è il caso qui di affrontare. Ecco, perché ho detto prima che Kant diciamo dà una lettura diacronica del pensare puro? Perché in fondo Kant considera il pensare nel quadro di una teoria delle facoltà, un quadro che non mette in conto la funzione storica e vitale del pensare stesso e dei rapporti sincronici che tale funzione, cioè il pensare, instaura con la cultura, cioè il linguaggio, la lingua, e con la praxis e la poesia. Ecco, la stessa sintesi a priori di Kant in fondo viene inficiata da questa impostazione che io chiamo diacronica. La sintesi viene dopo gli elementi, anche se questo, io ho ben presente la lettura di Heidegger, che invece afferma tutto il contrario. No? Ecco, però mi sembra che si possa parlare di questa diacronia nella impostazione kantiana. E la cosa è tanto vera che possiamo rilevare come in Kant la datità, il dato, e il pensare sono due poli opposti e sono due regioni diacroniche del pensare stesso. Ecco, ciò dipende dalla concezione secondo cui la datità identifica l'essere e il pensare identifica la funzione formale del giudicare. Ma c'è ancora di più. Se è vero che l'impostazione ficzionica, come la chiama Husserl, addebitandolo come un grande merito della impostazione kantiana, ecco, se questa impostazione apre la strada per la problematizzazione trascendentale, è anche vero che essa inclina fatalmente a dimenticare l'intenzionalità del pensare quale sua caratteristica trascendentale fondamentale. Ecco, a sua volta invece, da parte sua, Schleiermacher considera il pensare nel quadro di una sincronia pensiero-linguaggio. È una sincronia, per esempio, che io rileverei anche nella fenomenologia di Hegel. Sarebbe interessante un raffronto, non mi pare, che è stato portato avanti. Quindi una sincronia pensare-linguaggio e al tempo stesso nel quadro della sincronia pensare puro, pensiero operativo, pensiero artistico, praxis, poiesis, noesis. La sincronia va anche in questa direzione. Questo secondo tema è essenziale per seguire, diciamo, quello che ho chiamato l'impostazione del decorso della dialettica. Terzo, e sono quasi alla fine, l'impostazione trascendentale deve essere messa in relazione con la deduzione trascendentale kantiana. Qui io capisco che si apre tutto un grosso contenzioso, un grosso problema. Ecco, ma vorrei spiegare. In Schleiermacher l'area della problematizzazione trascendentale sorge dalla dialettica tra la verità, il Wissen, e in ultima analisi il Wissen wollen. C'è sempre questa, come dire, questa urgenza pratica, tra virgolette, tra verità e linguaggio. Da questa dialettica nasce l'area della problematizzazione trascendentale, che poi mi sembra di poter rilevare il problema nodale che veniva fuori dalla discussione, dalla formula provocatoria, l'ho chiamata, di Osculati. La fede come contenuto e il pensare come metodo, no? Perché se vogliamo poi è la stessa, è analoga almeno alla problematizzazione di Gadamer tra verità e metodo, eccetera. Ecco, quest'area che nasce in questo contesto permette una via di uscita tra la negazione scettica, tra la scepsi da una parte, che nega il Wissen, che, come dire, depotenzia di senso il Wissen, e la totalizzazione del absolutes Wissen, che pure è una delle proposte, direi, vincenti della filosofia dell'epoca. Tra queste due possibilità di porre il problema filosofico culminante, Schleiermacher instaura l'area trascendentale del Wissen incorporato nel linguaggio e dunque del Wissen affetto dalla ulteriorità, mentre per portare una formula, come dire, di contrapposizione, il Wissen hegeliano, per esempio, è affetto dalla rimemorazione. E quindi questo Wissen è affetto, è inficiato, no, radicalmente dalla ineffabilità. È in questa direzione che la dialettica svolge il motivo dell'Urgrund des Seins, che io chiamerei il motivo del fondamento defettivo. Elementi del discorso Schleiermacher che convergono nella determinazione dell'area di problematizzazione trascendentale sono questi. Prima, la struttura ontologica del Wissen. Il Wissen è legato al Sein, come abbiamo visto prima. Il Wissen è legato al linguaggio. Il Wissen è legato e fondato all'Urgrund des Seins. Ecco, il punto nodale della questione sta dunque nel tema Denken und Sein. Qual è la struttura di questo problema? Ecco, questo è l'apporto, mi sembra, significativo della dialettica. Ecco, nella discussione circa l'essere come oggetto del pensare, Schleiermacher si colloca tra Kant, l'essere, la tesi di Kant è nota, l'essere come posizione assoluta, come Dasein, e Hegel, cioè l'essere come cominciamento, e quindi il concetto di essere come indeterminato, che pure nella dialettica viene, come dire, rientra nella tavola dell'essere. Io prima ho parlato della tavola dell'essere, deve essere ricostruita attentamente. Ecco, a questo proposito io do gli elementi, quelli che mi sembrano gli elementi essenziali di questa tavola dell'essere. Ecco, l'essere viene, può essere inteso o come l'orizzonte dell'intenzionalità e del trascendimento del pensare, o come cosa della funzione intellettuale, come correlato della funzione intellettuale. Qui dovrei entrare nel mezzo, ma vi risparmio. L'essere come Dasein, nel caso, nel senso kantiano della posizione assoluta, ma c'è una differenza, mi sembra che Reuter la esprima molto bene discutendo la differenza tra il concetto schleiermacheriano di Wirklichkeit e quello kantiano. Infine, quarto, l'essere come categoria della Realität, come opposto alla Idealität, no? Diciamo un altro nodo tematico importante che richiama quella della polarità organico-intellettuale. E questo terzo tema, come vedete, costituisce un po' la struttura, ecco, del discorso della dialettica nei suoi approcci fondamentali. Infine, ecco, la determinazione, ma ho finito proprio, la determinazione della filosofia e del filosofare come filosofia prima. Io qui faccio un rimando ad Aristotele e a Kant, che ritengo opportuno sviluppare in questa sede. Comunque, ecco, secondo la definizione della dialettica, la filosofia che cos'è? E in particolare la dialettica. È il darsi da fare, l'occuparsi dei principi e della connessione del sapere. Ecco, il filosofare in questo senso viene concepito come discorrere. Qui c'è a monte il platonico Diania. È un discorrere mai completamente abbracciante la totalità. Ecco, non si dà per Schleiermacher l'absolutes Wissen di Hegel, per esempio. Ecco, per Schleiermacher la filosofia, diciamo, ha un limite, ha una limitazione. Questo limite viene nominato come fondamento defettivo. Il filosofare, d'altra parte, è legato alla comunicazione, al comunicare. In questo senso, il problema della verità, diciamo, e della sua fondazione trascendentale, un problema, per esempio, ai nostri giorni agitato, no, con tanto diciamo accanimento da Apel, ecco, trova nella dialettica una gestazione estremamente interessante. Infine, il filosofare ha un orizzonte cosmopolitico, cioè il filosofare, che è riconducibile alla spinta, no, all'impulso del Wissenwollen, implica un movimento di trascendimento dell'umano e denota, significa la destinazione ultimativa dell'umano stesso. È in questo contesto che mi sembra vada letta, come dire, l'impostazione, vada definita, ecco meglio, quella che inizialmente, all'inizio, ho chiamato la cosa del pensare, del pensiero di Schleiermacher. Ringraziamo il professor Sorrentino, possiamo respirare un po' liberamente adesso, però non ci resta molto tempo, direi che fra 10 minuti dobbiamo chiudere, perché altrimenti sentiamo un sentimento di dipendenza. Perdiamo la cena, se no. Se dico per domani mattina, dici? Ah sì, do la parola al professor Penzo. E poi... Ich wollte keinen Einwand machen, nicht? Mm-hmm. Nicht gegen die Person, um dich besser zu verstehen. Denn du hast uns auch erklärt, haben so über ein existenzielles Ausleben ein bisschen angedeutet, nicht? Ein bisschen angedeutet. Aber, Moment, du hast gesagt, man muss, also er will, Schleiermacher will den christlichen Glauben philosophisch erklären. Also, der christliche Glaube ist ein Positum, ein Faktum, nicht? Nur für uns Christen. Ist ein Positum, ein Faktum. Er will erklären, besser könnte wir sagen, er will verstehen, was erklären, nicht? Und dann natürlich diese Analyse, schlechthin, die Abhängigkeit, das Feuer und so weiter, nicht? Aber am Ende sagst du, dass diese, woher, nicht? Diese schlechthin, Abhängigkeit, sagst du, ist wie ein Blitz, hast du da gesagt. Ein Blitz von Gott. Ja, aber vorher bist du diese christliche Glaube als Faktum, als Positum philosophisch erklären. Und dann, wenn du wirklich das erklären willst, dann kehrst du zurück auf Gott. Ja, das ist keine philosophische Erklärung. Gestern habe ich gesagt, besser das andere. Verstehst du? Wenn ich das andere, nachher kann ich sagen, das andere könnte auch Gott sein und so weiter. Aber das andere ist schon ein philosophischer Begriff, ist kein theologischer Begriff. Aber wenn du springst, sofort, nicht, von dieser schlechten Abhängigkeit, das vorher, sagst du, ein Blitz von Gott, ja. Das ist so, ja, hast du verstanden? Und dasselbe auch für dich, denn du hast gesagt, der aus Zivil Natur, nicht gesagt, aber so fast, ob ich Schleiermacher, so besteht, so innen bleibt in diese romantische Auslegung Gott, Zivil Natur ungefähr, dass er nicht herauskommt, ob ich richtig verstanden habe, oder? So, nicht ganz, das ist nicht schlimm. Bene, questo è uno per il momento che vediamo forse prima. Ich wollte prima nur diese, altre, ich wollte nur das. Venga, nur sì, una, sì. Ja, danke. Moment. Ja. Nein, venga, sofort, venga. Das ist besser. Das ist besser, bisogna accenderlo. Ganz so, kurz, damit ja, ganz gut. Ja. An, auf, nein. Nein. Ja, aber er hatte eine gute, eine tolle Stimme. Grazie. Ja. Der Blitz aus heiterem Himmel. Ich habe gesagt, Blitz, das ist die Faktizität. Schleiermacher schreibt in der Glaubenslehre, diese Glaubenslehre ist nur für die Christen, ja, für keinen anderen. Positum. Faktum. Und nun sagt er, aber dieses Faktum will ich philosophisch analysieren. Ich kann es aber nur, ich kann sagen, Religion ist notwendig, weil sie zum Menschsein, zur Humanitas hinzugehört. Ich kann aber den anderen nicht dazu bringen, durch meine philosophische Analyse, dass er dann sagt, ja, Gott existiert. Und in dieser Spannung steht er. Er will erklären, aber er kann nicht so weit erklären, dass er dann die Zustimmung dazu erzwingt. Das geht nicht mehr. Also bleibt es immer eine Grundspannung. Aber die Zustimmung, also die Zustimmung, diese Zustimmung wäre für dich rational. Aber ich meine, es gibt eine Zustimmung, aber nicht erklären, so als Verstehen, nicht nur als Erklären, eine andere Zustimmung, ja, das ist der Unterschied. Ja, man könnte sagen, es gibt die Zustimmung, soweit, dass man sagt, der Mensch, gründet sich nicht in sich selbst. Ja. Das kann man sagen, das kann man erzwingen. Ja. Das kann man sagen. Das der Mensch, mehr kann man nicht sagen. Nein, und das ist das Wichtigste. Gut. Ja. Gut. Aber Schleiermacher sagt, der Christ sagt etwas anderes. Der Christ sagt etwas anderes. Und das, was der Christ sagt, das will ich auslegen. Und dafür verwende ich die Kategorie der schlechtlichen Abhängigkeit. Ja, bin ich Gott. Bitte? Aber das ist nicht Gott, noch nicht Gott. Ja, schon Gott gemeint, es aber noch Gott. Nicht Gott. Schon Gott gemeint, ja. Aber noch nicht. Gut, man kann sagen, philosophisch erklären, das schlecht, das schlecht, also das nicht gegründet sein des Menschen in sich selbst. Ja, das. Ich glaube, man kann noch ein Stück weitergehen. Man kann noch ein Stück weitergehen. Die Unmöglichkeit reflexiver Selbstbegründung des Selbstbewusstseins, die der Mensch vorfindet, hat eine Konsequenz. Diese Konsequenz heißt, positiv formuliert, nicht nur negativ formuliert, sich in einem anderen gegründet zu finden. Das ist die logische, positiv formulierte Konsequenz der bloß negativen Einsicht, sich nicht selber in sich begründen. Ja, aber das ist das andere, diese Linie, nicht? Das andere und dann im anderen. Aber zuerst das andere. Und nachher im anderen. Va bene, jetzt sentiamo una parola. Potete poi discutere a cena. Vorrei così chiedere a Sorrentino sì, un chiarimento, anche perché un certo rinvio a un personaggio rilevante nel passaggio o nel milieu culturale in cui si collocano sia Kant che Schleiermacher, un nome mi sembra rilevante non è stato fatto. Forse invece per Schleiermacher è molto importante, soprattutto come tramite e passaggio nei confronti di Kant, come criterio di lettura, che è lo Jacobi. Lo Jacobi è fondamentale. In fondo è proprio lo Jacobi che davanti, in fondo, taccia Kant in un certo senso di razionalismo e di razionalismo che poi finisce lo accusa di nichilismo, no? Di non superare il fenomenismo, di distruggere la cosa in sé e con la cosa in sé Dio, in fondo, e quindi gli contrappone come criterio di verità, come vera soluzione della tematica, anche critiche, teologiche del mondo, proprio la fede. Però. E mi sembra tutto sommato che questo tentativo di Schleiermacher nelle Reden di mettere l'esperienza di fede in fondo accanto e sopra l'esperienza di ragione e di morale, tutto sommato integri e prosegue, approfondisca proprio il notissimo discorso di Jacobi, che tra l'altro Schleiermacher conosceva benissimo proprio perché proviene dall'ambiente teologico, insomma. E questo mi sembra che sia estremamente rilevante, perché forse non si capisce bene, non si capiscono bene i rapporti articolati di integrazione e contrapposizione, direi, con Kant, se non attraverso lo Jacobi. Una breve risposta, sì, parte, poi terminiamo. Se l'invito a questo suggerimento, Jacobi, io potrei soltanto dire che però stiamo attenti, no? Perché voi sapete che c'è stata pure una presa di distanza da Jacobi, una famosa lettera che a mio avviso è significativa della impostazione di fondo, no? Che sorreggeva i due, come dire, universi intellettuali, quello di Jacobi e quello di Schleiermacher. Però è chiaro che ci sono stati dei rapporti, non lo so se sono stati in relazione alla lettura di Kant, no? Più in relazione, mi sembra, alla lettura di Spinoza, no, questa mediazione. Allora il problema probabilmente le note critiche le note rilievi di Jacobi nei confronti della critica della ragione pura prima edizione sono dell'85, certo. Le Reden sono di 14 anni dopo, quindi bene, possiamo forse concludere qui. Domani mattina ci aspetta l'ultimo round, c'è il professor Bolno che vorrà parlarci, ci sono i rappresentanti della scuola di Tubinga ancora, e poi c'è il professor Tommasoni. E, va bene, così è conclusa questa serata, abbiamo lavorato molto e dobbiamo applaudire ancora a tutti gli oratori. Applaudiamo. E buona cena a tutti.